Rileggo un titolo che pesa come pietra. Al di là del bene e del male mi aspetta. E lui smonta uno a uno i grandi palazzi. Da Socrate in poi, fino ai maestri e ragazzi. E Cristiano stoico, Kant con la legge in mano, dice: non mi fate piccolo, non mi fate umano. Solo a metà, io voglio la forza, voglio la verità. E sotto la pelle delle buone intenzioni c'è un filo che tira, ci sono visioni, una volontà di potenza che chiede passaggio, che vuole il comando, che pretende coraggio. Oltre e oltre il bene e il male, tra le crepe della morale, c'è una voce che non chiede perdono. Chi decide cosa è buono? E io cammino sul confine sottile, con la luce negli occhi e l'ombra nel cuore. Perché quando guardi l'abisso davvero, lui guarda te e non fa rumore. La religione può essere un guinzaglio d'oro, oppio e controllo in cambio di coro. La massa si calma, la classe comanda, economia sopra, la fede si manda. Schopenhauer, maestro e bersaglio, la volontà di vita diventa dettaglio. Un frammento soltanto di un desiderio più alto e più tanto. Poi arriva il lato che punge, che fa discutere, antidemocratico, duro da digerire. La misoginia, un capitolo che pesa, che mostra il limite, la ferita, la resa. Ma intanto rifiuta l'odio che sale, l'antisemitismo lo lascia fuori dal male. Oltre e oltre il bene e il male, tra le crepe della morale, c'è una voce che non chiede perdono. Chi decide cosa è buono? E io cammino sul confine sottile, con la luce negli occhi e l'ombra nel cuore. Perché quando guardi l'abisso davvero, lui guarda te e non fa rumore. Due sessi che si specchiano, idealizzano, si cercano e si mascherano. Lui vuole docilità, ma lei è un gatto che graffia. E nell'ombra di Jung, nell'eco di Freud, c'è il genitore che torna travestito da noi. Combatti i mostri ma ascolta, non diventare ciò che odi, non perdere la rotta. Se fissi un abisso a lungo, l'abisso ti prende il volto. Zimbardo sussurra attento al ruolo che indossi. E io mi chiedo se al male servano anche posti più luminosi. Oltre e oltre il bene e il male, non è una scusa, è un segnale, tra scienza e filosofia, tra corpo e ragione. Non diventare ingranaggio, non farti prigione. Io cammino sul confine sottile, con la luce negli occhi e l'ombra nel cuore. Perché quando guardi l'abisso davvero, puoi scegliere tu cosa farne del dolore. Forse sì, letture più positive.